Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei. Piacere, Francesca. Se il cuore sta a sinistra, il bagno in fondo a destra, dovevo andare lì quando mi ha detto. Dai, resta. Ma lei è così magnetica, ipnotica, parliamo per ore. Non mi sembra la solita che cerca l'amore, ma che quando ha aperto il cuore l'ha sempre fatto male. A chi non sa la differenza tra spingere o tirare. Ma ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene. Le dico andiamo ti va, facciamo il vento dal bar. Lei appena la vedi ti manda in blackout. Dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao. Vabbè ciao, vabbè ciao. Pelle biancolate, gli occhi di cacao. L'aspetta a mezzanotte un po' come un countdown. Lei è così bella che vabbè ciao. Vabbè ciao, vabbè ciao. Le avrei cantato tutto mandarino, ma dopo due bicchieri parlo mandarino. Andiamo a mano come cantarino. Vogliamo sopra la città, Aladino. Lei mi dice sali da me, rapidamente. Anche se è un po' piena di sé, piena di red flag. Ma con il suo abito e nel suo habitat naturale. Col suo sguardo da voglio farlo un po' innamorare. Ma ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene. La notte non finirà, domani poi si vedrà. Lei appena la vedi ti manda in blackout. Dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao. Vabbè ciao, vabbè ciao. Pelle biancolate, gli occhi di cacao. L'aspetta a mezzanotte un po' come un countdown. Lei è così bella che vabbè ciao. Vabbè ciao, vabbè ciao. Fammene uno dai. Anzi due dai. Facciamo tre, dai. Ritorno in quel locale ormai ogni venerdì, sperando di vederla ma non la trovo più qui. Che solo Paganini non ha mai concesso bis. Mi manca come Twitter, però ci ho messo una X. Appena la vedi ti manda in blackout. Dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao. Vabbè ciao, vabbè ciao. Pelle biancolate, gli occhi di cacao. L'aspetta a mezzanotte un po' come un countdown.